Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È la stessa situazione che vivono i ciclisti del Giro d'Italia quando scollinano il Passo dello Stelvio e si buttano dall'altra parte sudati con l'aria gelida. Tuttavia, nel nostro caso le condizioni sono più proibitive, perché oltre ai meno 17 gradi si è aggiunta l'azione del vento della discesa. La temperatura è quindi prossima ai 22 gradi sotto lo zero. Ciao a tutti, sono Marco Parolini, sono di Trento, sono sposato e ho due figli e faccio il mestiere più bello del mondo, il formatore. E sono un grande appassionato di alpinismo e di ciclismo. Ieri sera sono andato a vedere al cinema, e non con qualche delusione devo dire, il quarto episodio della saga di Bourne, il film, il thriller che aveva come protagonista Matt Damon e adesso ha l'altro attore di cui ovviamente non mi viene in mente il nome. Però in realtà non è che non mi viene in mente, proprio non lo so il nome di questo attore qui. The Bourne Legacy, credo che sia il titolo completo, che, come ha giustamente detto Franco D'Assisti, che non ne sbaglia una da questi microfoni, appunto non è un grandissimo film. Il film però comincia con l'immagine di quest'uomo sospeso nell'acqua, sulla superficie dell'acqua, che poi si butta nel fondo e raccoglie un oggetto che è una sorta di testimone. Quando esce ti rendi conto che lui è nudo nell'acqua ed è probabilmente in Alaska, ci sono qualcosa tipo 30 gradi sotto lo zero. La cosa interessante di tutti questi film, ma anche per quanto riguarda Batman, no? È che a un certo punto l'eroe deve dedicare una parte del suo tempo ad allenarsi. Cioè, l'eroe si allontana di solito in luoghi solitari, appartati, e passa giorni, giorni, mesi, ma anche Rocky, no? A un certo punto si chiudeva in una baita, perché dallo stato in cui si trova deve recuperare la forma, deve entrare in forma, comunque si deve allenare, deve dedicare tempo e concentrazione a quello, all'allenamento. L'allenamento in realtà è la parte che nessuno di noi conosce o nessuno di noi vede quando vede l'effetto finale, ad esempio, di una gara sportiva. E nei film, infatti, l'allenamento è sempre con la musica di sottofondo. A un certo punto parte questa musica e si vede lui che fa i pesi, si butta nell'acqua ghiacciata, corre di notte, piglia il vento, la neve e la pioggia. L'allenamento però è la parte fondamentale di qualsiasi cosa si voglia fare per raggiungere un obiettivo. E il racconto di oggi, il racconto di Marco, ne è l'esempio lampante. Allora, partiamo dal titolo. Alcuni di voi mandano i racconti a Voi siete qui, @radio24.it, senza un titolo, semplicemente dicendo racconto per Voi siete qui, e poi noi gli diamo un titolo in base a più o meno il tema della giornata, il tema della puntata, perdonatemi. Marco invece aveva proprio deciso, e ammetto che in questo caso era stato proprio il titolo ad attrarre l'attenzione, perché il titolo del suo racconto è "Non è l'ultima erbetta fresca ad ingrassare il coniglio". Ora, come c'entri questo argomento con un tizio che sta a 30 gradi sotto lo zero ad allenarsi per quello che lui definisce il lungo lento, e poi gliene succedono in tutti i colori durante questo allenamento, ancora non lo capivamo se non prima di leggere la sua storia. Per cui state con noi e lo scoprite anche voi. 349-238-6666 per gli sms, oppure Voi siete qui, Radio 24 sul profilo Facebook, se avete voglia di raccontarmi qual è l'allenamento che fate quotidianamente. Qual è la cosa per cui dovete fare un allenamento costante per ottenere dei risultati? Qualunque essa sia, uno sport, crescere i figli, avere pazienza, mi scrive qualcuno, per avere pazienza per ottenere cosa, non si capisce. 349-238-6666. Questo è l'allenamento di Marco, questo è il lungo lento. Il lungo lento è una metodologia di allenamento tipica degli sport di resistenza, come la maratona, il fondo o lo sci alpinismo. E consiste nel simulare un carico analogo o superiore a quello della gara, ma andando più lentamente. Il principio è quello di portare l'organismo progressivamente ad abituarsi a sostenere uno sforzo di relativa bassa intensità per un tempo molto lungo. Nel lungo per lo sci alpinismo puoi assaggiare la tua resistenza fisica e psicologica. Puoi testare cambi di assetto, salita, discesa, quindi togli e metti le pelli, i materiali e l'alimentazione. Insieme a Fausto, il mio compagno di cordata per la Sella Ronda Ski Marathon, una gara notturna di sci alpinismo di 42 km attraverso 4 passi dolomitici, abbiamo scelto il mercoledì mattina per celebrare il nostro lungo. La strategia di quel lungo l'ho ideata io, ed era semplice. partire da una valle e attraversarne altre due in modo da essere obbligati a ritornare indietro by fair means, ovvero con mezzi leali. La spudorata realtà era che in questo modo non avevamo alcuna scusa per interrompere il nostro allenamento qualora la fatica ci avesse colto all'improvviso, togliendoci le energie e la motivazione per proseguire. È stato così che dalla cima del Prada Lago ci siamo buttati verso valle, ai margini di un lago ghiacciato dove abbiamo ripellato per salire in direzione del Monte Vigo. Da questo punto, a 2200 metri, potevamo vedere la Val di Sole, la nostra destinazione di metà percorso. Ecco, è stato qui che il freddo e la fatica hanno cominciato a farsi sentire. E mentre il termometro segnava inesorabile meno 17 gradi, ho cominciato ad assaporare gli effetti dell'ipotermia. Ma la passione per la montagna credo che arrivi da alcune immagini che ha contribuito a realizzare mio padre quando ero piccolino, che tornava dalle sue scalate. Io lo guardavo con la sua camicia di feltro rosso a raccontarmi le sue avventure. Quindi il primo desiderio di provare anch'io a fare queste cose è nato lì. L'ipotermia o assideramento è la condizione in cui la temperatura corporea scende significativamente al di sotto del suo valore normale di 35 gradi, al punto da ostacolarne il metabolismo. L'ipotermia non è una cosa nuova per me, ma questa volta ai brividi si è aggiunta la sonnolenza, che mi ha predato anche l'ultimo briciolo di razionalità. Con la mia tutina da gara, molto più simile a quella di un pattinatore da ghiaccio che ad un abito da alpinismo, non poteva essere altrimenti. Pur avendo nello zaino abbigliamento pesante e adeguato alle basse temperature, abbiamo deciso di rispettare il protocollo di gara, che prevede di buttarsi a valle vestiti esattamente come in salita, ovvero con una maglietta intima, maniche corte, coperta dalla sola tuta da gara. Di solito il calore accumulato in salita è sufficiente a evitare di patire il freddo cane della discesa. È la stessa situazione che vivono i ciclisti del Giro d'Italia quando scollinano il passo dello Stelvio. Tuttavia, nel nostro caso, le condizioni erano più proibitive perché oltre ai meno 17 gradi si era aggiunta l'azione del vento della discesa. La temperatura era quindi prossima ai 22 gradi sotto zero. Provo a rialzarmi, sono dolorante e ricoperto di neve. Non ricordo la dinamica della caduta, perché è successo tutto all'improvviso. Ma è certo che dopo aver sonoramente sbattuto spalla e braccio destro sulla neve ghiacciata, mi sono catapultato per aria un paio di volte, prima di ritrovarmi a testa in giù, con la faccia nella neve gelida. Ho una magra consolazione, gli sci sono ancora attaccati agli scarponi. Il dolore non è ancora forte, ma questa volta credo di essermi rotto la spalla. D'altra parte mi è sempre andata bene da quando 12 anni fa mi sono spezzato le ginocchia sul Piz Se Svenna in Svizzera e sono arrivato a valle solo a notte fonda. Fausto è 100 metri più in basso, ma sembra non essersi reso conto di nulla. Quando lo raggiungo, dopo aver rimesso insieme tutti i pezzi, mi sento un perfetto idiota. Stringo i denti per il dolore, ma mi rendo conto di una cosa che mi tranquillizza. Non riesco ad alzare il braccio, ma riesco a muoverlo avanti e indietro col bastoncino da sci, che è proprio quello che mi serve per affrontare i prossimi 20 km e 1500 metri di salita. Ho le dita delle mani congelate e un impellente bisogno di urinare. Il mio miraggio è di raggiungere un piccolo rifugio poco distante dove scaldarmi con del tè caldo vicino a un fuoco. Ma il mio compagno è inesorabile. Anche lui è in preda al gelo che gli ha congelato la mascella e forse le meningi, ma capisco bene quello che biascica con la bocca. Dobbiamo rispettare le condizioni di gara. È così che riprendiamo mestamente a risalire verso la sommità del Monte Vigo. Non mi riscaldo con il tè caldo, bensì con il movimento, salendo a ritmo veloce e regolare. E ora, nonostante il dolore alla spalla, mi sento più forte che mai. Indosso anche le mie moffole himalayane, così il sangue ricomincia a circolare nelle dita delle mani. È un dolore lancinante, ma so che durerà poco. Riscaldandomi, riacquisto anche quella lucidità che mi permette di apprezzare il mio buono stato atletico e l'ambiente che mi circonda. La recente nevicata ha coperto gli abeti, si sente forte il profumo della neve e il canto di qualche raro uccello che non si è fatto spaventare dal freddo. Soprattutto però apprezzo che il tempo stia cambiando rapidamente e ora cominciano a scendere dei fiocchi di neve. Così quando raggiungiamo la sommità del Monte Vigo, la visibilità ci permette solo di intravedere il rifugio Pradalago. Ci separano ancora una valle e poi un'ultima risalita. Quando ci rientreremo un'ora e mezza più tardi, la cucina sarà già chiusa, ma il rifugista impietosito non ci rifiuterà un minestrone caldo e un brulè di succo di mela. A questo punto mi è capitato di raggiungerlo in alcune occasioni e in quel momento vedevo di fronte a me, diciamo, i miei cari, in particolare la prima figlia che doveva nascere. In quel momento ho deciso che non avrei più fatto certe cose in assoluto e effettivamente non le ho più fatte, ci sto alla larga. Nevica copiosamente sulla strada gelata e per questo evito di pigiare sull'acceleratore. È buio e il paesaggio, illuminato dai fari della mia auto, è bianco, ovattato. Sono rientrato a casa da poco, il tempo di una doccia e di indossare un abito adeguato all'importante riunione che mi attende in città, e sono di nuovo al volante. Per la prima volta vorrei avere tra le mani una vettura col cambio automatico. Visto il mio handicap, ogni movimento è uno strazio per la mia spalla. Mentre guido mi convinco che non ho nulla di grave e fra qualche giorno sarò di nuovo in forma. Cerco conferma. Con difficoltà impugno il cellulare e riesco a rintracciare Paolo, medico farmacista e mio preparatore atletico. Dopo alcune domande di rito la sua diagnosi è precisa. Secondo lui si tratta solo di una distorsione. Ma come fare ad allenarmi negli ultimi 10 giorni prima della gara? Secondo Paolo ho un ottimo stato atletico e non sarebbero un paio di uscite a farmi migliorare ulteriormente. Non è l'ultima erbetta fresca ad ingrassare il coniglio, mi dice con sicurezza. Mentre procedo verso la città, ripenso al nostro lungo. Oggi, in 5 ore, abbiamo salito più o meno il dislivello che c'è tra il campo base avanzato e la cima dell'Everest. Mi compiaccio con me stesso per il risultato e per l'esperienza vissuta in compagnia dell'amico. Non lo so come andrà la nostra sella ronda ski marathon, se la termineremo sopra o sotto le 5 ore. Oppure se ci ritireremo. In ogni caso, sarà bello anche solo averci provato con convinzione e con passione. I tergicristalli si muovono regolari. Attraverso il parabrezza guardo la neve, che cade copiosa. Sono a Trento, scrivono al 349-238-6666, sto andando velocemente a casa a Bergamo per godermi un'ora di bici. Si parla di allenamento oggi, si parla della cosa che fate per cui dovete allenarvi maggiormente. Mi scrive Steo da Biella, Paganini che non ripete, quello che non ripete, no? Lui. Se non mi alleno per un giorno me ne accorgo io, se non lo faccio per 2 giorni se ne accorge il pubblico. 349-238-6666, ringrazio anche Marco che ci fa sapere che lui ha sciato a meno 30 nel corso sci degli Alpini e dimostra sempre quanto è più bravo di noi e più bravo di tutti gli altri che scrivono questo programma. E ciao Marco da Vicenza. E poi ancora mi scrive Gabriella che è un allenamento complicato il suo, però il risultato è chiaramente forse più importante degli altri, di quello di cui parliamo anche oggi. Mi alleno tutti i giorni nel preparare un pranzo completo per mia figlia che è anoressica e che devo rieducare come se avesse un anno, anche se ne ha 18. In bocca al lupo a Gabriella e a sua figlia. Andiamo però a sentire quello per cui abbiamo cominciato tutta questa storia, che ha deciso di fare lo stesso allenamento che era doveva fare in gara by fair means, giusto? Pronto Marco? Sì, ciao ciao. Ciao, come stai? Benissimo. Senti, by fair means, come ci spieghi nel racconto, significa con mezzi propri, con mezzi leali, giusto? Sì, esattamente. E quindi tipo fermarsi a prendere un tè caldo non era leale? Diciamo che in gara non ci saremmo fermati a bere il tè caldo di sicuro e quindi anche in allenamento era meglio che non lo facevamo. Senti, però fammi capire una cosa, poi parliamo anche della gara perché vogliamo capire com'è andata a finire. Dal tuo racconto ho capito bene che tu nello stesso giorno hai fatto sta cosa qua e poi hai avuto una riunione? Sì, è così, perché poi nel tardo pomeriggio avevo una importante riunione a Trento e quindi, terminato l'allenamento, mi sono fatto la doccia e con la macchina mi sono messo in marcia per tornare in città. Quindi a che ora sei partito la mattina? Cioè a che ora sei alzato la mattina? La mattina ci eravamo alzati alle 4:30, alle 5, abbiamo messo gli sci alle 6 e ci siamo levati nel primo pomeriggio, credo fossero le 14. E la riunione com'è andata? La riunione è andata bene, Adesso non ricordo che riunione fosse, però era stata una buona giornata quella, lo ricordo bene. Senti, e la gara poi? La gara è stata fantastica, è stato molto più freddo che durante l'allenamento, è stata la Sella Ronda Ski Marathon più freddo degli ultimi 20 anni. Cioè parliamo di che temperatura? Parliamo che al Passo Gardena erano meno 30, okay. Quindi è stata freddissima, ho subito dei congelamenti alle mani. Beh, benissimo, questo però alle mani al naso, mi sembra il minimo però, nel senso che visto che ci dici che eravate vestiti come dei pattinatori di ghiaccio, no? Sì, poi io tiro sempre un po' indietro anche sugli abiti, quella volta non avrei dovuto farlo, però è andata così. Tu tiri indietro le maniche, hai detto? No, diciamo non mi vesto abbastanza, insomma. Di proposito? Ma mi tengo le cose nello zaino e poi vado avanti. E non le tiri fuori. Di che anno parliamo, scusami Marco? Parliamo di quest'anno. L'allenamento che vi ho raccontato era i primi di febbraio e la gara era immediatamente... qualche giorno dopo, insomma. Senti, la domanda che sorge a tutti quelli che non fanno queste attività, e sono chiaramente la maggioranza rispetto a quello che le fanno, sì, è perché? Perché? Sì. Ma perché quando lo faccio sono felice e quindi ritengo che sia importante che ciascuno di noi faccia ciò che lo rende felice. A me mi dà una estrema soddisfazione. Tra l'altro uno si immagina, no, che una persona che faccia questo sia una persona solitaria, con una vita quasi distrutta, insomma, senza una moglie, una famiglia. Invece tu hai una moglie, hai dei figli, hai un lavoro. Cosa ne pensa tua moglie? Bisognerebbe chiederlo a lei. Cerco di fare prova a dirmelo tu. È un argomento di discussione. Ok, va bene. Senti, invece mi dicevi prima che tu di fatto hai cominciato a fare il lavoro che fai grazie alla passione per la montagna. Sì, è proprio così. Cioè? Io praticamente ho letto un libro appena mi sono laureato e ho provato a trasformare la storia che avevo letto in quel libro in un'attività di formazione. Infatti facciamo attività di team building outdoor per manager, ci siamo ricavati una nicchia importante in questo Quindi, settore. Quindi in pratica tu porti manager a 3000 metri di quota? Anche sì, oppure anche sott'acqua con la subacquea. Ma senti, diciamocelo tra di noi, tanto tu non hai detto il nome della tua società, sì. Quindi... ma questa roba funziona? Cioè, dopo che un manager che magari ha passeggiato giusto fino all'alpeggio a 1500 metri a mangiare la polenta è venuto con te in cima al Passo Gardena o quello che è, che cosa cambia poi nella sua vita professionale, intendo? Ma al di là delle attività che si fanno, contano molto quello che ci sta intorno a queste attività, quindi l'aspetto di analisi della situazione e soprattutto di debriefing e l'imparare dall'esperienza che si è vissuta insieme alle altre persone che l'hanno fatta con te. Grandissimo Marco, guarda, sei riuscita a deviarlo sul professionale e mi tengo questa risposta. Marco, grazie ancora per il tuo racconto. Hai una gara a breve in programmazione? Ho un altro Sella Ronda nel febbraio dell'anno prossimo. Ok, e allora visto che siamo in onda magari facci sapere. Va bene. Ciao, in bocca al lupo per l'allenamento. Ciao. E tutto il resto. Ciao a tutti. La foto che ci ha mandato Marco non poteva che essere ovviamente in montagna, sugli sci, in mezzo alla neve, con una temperatura probabilmente attorno ai 20 gradi sotto lo zero, e il panorama che è inconfondibile, che è quello delle Dolomiti intorno. La persona che lo fotografa è al di sopra, lui è sotto, è più a valle rispetto all'amico, di cui si intravede tra l'altro un pezzo di guanto, ma in montagna col freddo che fa è normale non riuscire a fare una foto perfetta. E lui è nella tipica posizione d'attesa, un po' dello sciatore figo che sta aspettando il momento per ripartire, e sotto di lui un canalone strettissimo e ripidissimo. Limite. Linea terminale o anche divisoria, qualsiasi contrassegno del confine di un terreno. Valore dal quale risulta condizionata l'entità o l'estensione di un'attività, di un'azione, di un comportamento, di una prestazione o di una proprietà caratteristica. In matematica, il valore che tende ad assumere una funzione, quando la variabile indipendente tende verso un certo fissato valore. Etimo, dal latino, limes limitis. Data prima del 1313. Te ne rifaccio un'altra di fila, dai. Ma è una cosa pazzesca, cioè... No, va bene questa, andava benissimo questa, Alessandra. 349-238-6666, si parla di allenamento e di lunghi allenamenti in vista di un obiettivo da raggiungere. Prepararmi tutto l'inverno, questo è il mio allenamento, per una surf session in Oceano Indiano di 10 giorni. Anche io sono uno dei tanti manager sfigati che cerca altrove le sue soddisfazioni. Non si firma e quindi non so chi sia, non so cosa faccia e non so cosa voglia dire una surf session. Cioè è una vacanza, immagino, di 10 giorni in cui fai surf invece che immersioni, giusto? Una roba del genere. Federico, mi diverte molto il messaggio di Federico che dice: è incredibile come nella mia mente ogni giorno sia sempre più allenato a qualsiasi sport e invece nella mia quotidianità non muovo un dito e sto ingrassando come un bue. E poi ancora Giuliano mi scrive: sono sopra il tetto di casa a dare la catramina, ma alle 6 mi aspetta l'allenamento per la Venice Marathon. Quindi si parla di corsa e si parla di catrame. Cioè, poi il catrame cos'è? La catramina è la pece, che è l'isolante, no? Che metti sul tetto. Mi piace quando parlo come se sapessi di cosa sto parlando. Sono un vecchio di 40 anni e parto per andare ad allenarmi a rugby. Ed è come se fosse la prima volta. Non vedo l'ora. Simon Black. Che spero sia uno pseudonimo, no? Sarà Simone a cui piacciono gli All Blacks, immagino. Quando si è parlato di allenamento e di limite, io non sono riuscito a non pensare a questo libro che è la biografia di Rafa Nadal, che è un tennista che in realtà in questo momento è un po' fuori dal giro, da un po' ormai, da Wimbledon, da quando è stato mandato bruscamente fuori, quindi si parla di luglio. Nadal però ha questo aspetto e la sua biografia, che non è magnifica, devo dire, non è Open di Agassi, non è quella storia lì, però devo dire è tradotta bene da una nostra ascoltatrice, peraltro, che è Chiara Tixi, che abbiamo sentito lo scorso anno. Nella sua biografia una cosa che lui dice chiaramente è: primo, se non ci fosse stato mio zio Tony, che è quello che vedete sempre sugli spalti quando lui gioca, io non sarei arrivato fino a qua. Secondo, si capisce che suo zio era di fatto un tiranno, come spesso capita per quanto riguarda parenti di atleti che diventano dei campioni, e lo obbligava a una cosa, alla resistenza continua, all'allenamento. La cosa che gli dice suo zio appena comincia a giocare, appena comincia a diventare un giocatore serio, è: c'è un altro giocatore più forte di te in questo momento, si chiama Roger Federer, lui ha più talento di te, per batterlo tu puoi solo allenarti e non mollare mai. E Nadal questa roba la prende come se fosse di fatto una religione. Il libro si chiama Rafa, la mia storia, e racconta in un punto, nei primissimi capitoli, proprio quanto suo zio Tony continuasse solo a puntare tutto sull'allenamento. Tony non mollava mai. Quando cominciai a disputare incontri a livello agonistico, all'età di 7 anni, diventò perfino più severo. Un giorno in cui faceva molto caldo, arrivai alla partita senza la mia bottiglia d'acqua, perché l'avevo dimenticata. Avrebbe potuto comprarmene una, ma non lo fece. Avrei imparato a essere responsabile, mi disse. C'erano divertimento e magia nel mio rapporto con Tony, anche se quando ci allenavamo lui tendeva ad essere inflessibile. In ogni caso, collezionavamo molti successi. Se quel giorno non mi avesse fatto giocare senza la bottiglia d'acqua, se non mi avesse scelto per ricevere un trattamento così severo quando ero in quel gruppo di bambini a imparare il gioco, se non avessi pianto di fronte alle ingiustizie e agli insulti di cui mi ricopriva, forse oggi non sarei il giocatore che sono. Tony sottolineava sempre l'importanza della parola resistere. Resistere, tollerare qualunque cosa ti capiti, imparare a superare la debolezza, il dolore, spingerti fino al limite senza crollare. Se non impari questa lezione, non riuscirai mai ad essere un grande atleta. Ecco cosa mi insegnava. Spesso faticavo a reprimere la rabbia. Perché devo essere io e non gli altri ragazzi a spazzare il campo dopo ogni allenamento? Mi domandavo. Perché devo raccogliere più palline degli altri? Perché Tony mi grida contro in quel modo quando mando fuori la palla? Ma imparai anche a interiorizzare quella rabbia, a non tormentarmi di fronte all'ingiustizia, ad accettare la situazione e conviverci. Sì, probabilmente Tony esagerava, ma il suo atteggiamento sortì l'effetto desiderato. Tutta quella tensione durante ogni allenamento, fin dall'inizio, mi ha permesso di affrontare i momenti difficili di una partita con maggiore autocontrollo. Mio zio ha fatto molto per forgiare quel carattere battagliero che le persone dicono di vedere me sul campo. love these days. For I look around me and my eyes confound me, and it's just too bright as the days keep turning into night. Due messaggi per chiudere la puntata di oggi. Vado a farmi 2 ore di equitazione western, team penning, che abbiamo scoperto essere uno sport, lavoro con il bestiame. E l'ultimissimo messaggio è questo, ed è di Massimo. Il 14 aprile 2012, infarto miocardico, e il 14 maggio ritorno a correre, l'allenamento più bello, tra le lacrime più dolci. Grazie a lui, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Pietro Lacorte. La storia di oggi era la storia di Marco, e anche lui, da oggi, è un punto rosso su una mappa. Sono Paolo Pascotto, sono sudata con Silvano Carnera, quello dell'incidente, ve lo racconterò domani. Io sono di Pordenone, l'incidente è accaduto alcuni mesi fa, tutto si è risolto, ma l'aereo con mio figlio e mio marito è caduto ed è stato veramente un incidente molto grave, ma siamo qui a raccontarcela e ve la racconterò domani. Questa è la mia storia e io sono qui.